sono i Bon Jovi. È vero Matteo? È verissimo. Grazie Matteo. Ciao, allora, ciao, grazie. Buona giornata. Alla prossima, ciao. Ciao.